L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati. È davvero con piacere che questa settimana torniamo a parlare di Vento Bici Tour, biciclettata lungo il Po da Venezia a Torino, sul percorso studiato dal gruppo di lavoro del DASTU, Dipartimento Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, che da diversi anni lavora al progetto di una dorsale cicloturistica della Valle del Po che possa lanciare il cicloturismo in Italia, un turismo più sostenibile e anche nuovo nel nostro paese, ma già molto in voga invece all'estero. Questa cosa qua, che si chiama Vento, è una dorsale cicloturistica di 630 km. L'audio che sentite in sottofondo è quello del film che è stato tratto dalle precedenti edizioni di Vento. Oggi sono già attaccata. Quella del 2015 infatti sarà la terza edizione e il progetto, da quando 3 anni fa ne parlammo per la prima volta, è cresciuto molto, trovando sempre più supporto e sostegno nei cittadini e nelle istituzioni. Quest'anno si parte il 30 maggio da Venezia, come dicevamo, per arrivare in 9 tappe e 15 eventi lungo la via il 7 giugno a Torino, in occasione dei Bike Days piemontesi e del Bike Pride di Torino. Con noi per parlare di Vento ci sono Paolo Pileri, professore associato di progettazione e pianificazione urbanistica al Politecnico di Milano, e Diana Giudici, ricercatrice presso il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani dello stesso Politecnico. Allora, si tratta di un progetto che il Politecnico porta avanti da 3 anni ed è il progetto di una lunga pista ciclabile lungo il Po che va da Venezia a Torino, da cui il nome Vento. È una pista ciclabile per turismo, cicloturismo, che è una delle opzioni su cui, come dire, stiamo facendo da qualche anno i conti per i benefici che potrebbe portare. Di fatto altri paesi ormai hanno da tantissimo tempo investito nella rete cicloturistica, traendone tantissimi benefici per il territorio, benefici economici e occupazionali. Con Vento in questo momento è immaginato sugli assi arginali, quindi sulle sommità degli argini che ci sono lungo il Po. Sono 630 km lungo il Po più un appendice che da Pavia va a Milano. Idealmente voleva collegarsi con Expo. Perché voleva collegarsi in Expo? Io, diciamo, lo riveliamo subito, perché in realtà il nostro paese è un paese ancora straordinariamente agricolo, tant'è vero che anche la pista ciclabile immaginata da noi passa in un territorio ricco di agricoltura, 10.000 aziende agricole, ma anche ricco di grandissime, purtroppo, sofferenze, nel senso che queste 10.000 aziende agricole potrebbero, chissà, avere degli enormi benefici da un turismo che oggi non c'è lungo il Po e che potrebbe arrivare ad avere cifre ragguardevoli, tipo 300.000 passaggi all'anno. Sono opzioni turistiche in questo momento che non trovano in Italia un programma, non trovano in Italia un'aspettativa, perché innanzitutto non ci sono le infrastrutture. Quindi questo progetto è un progetto di infrastruttura, è un progetto di pista con le sue larghezze, le sue pendenze, i suoi ponti, i suoi incroci, quindi c'è proprio un progetto di architettura e di ingegneria per immaginare un capitolo nuovo di infrastrutturazione del paese. Diciamo che c'è anche un po' questa ambizione da parte nostra. Come mai siamo alla terza edizione? Cioè, che cosa state cercando di dimostrare o di capire in questi tour che si stanno susseguendo? Allora, sicuramente abbiamo bisogno di spiegare direttamente al territorio i benefici che il territorio stesso potrebbe ricevere dall'avere un'infrastrutturazione turistica di questo tipo. Oggi pochi sanno che cos'è il cicloturismo, ancora pochi, e soprattutto quali sono i benefici che incasserebbero se vi fosse una infrastruttura di questo tipo. Molto spesso sono spaventati dal costo di questo tipo di infrastrutture. Lo dico subito, l'infrastruttura Vento verrebbe a costare circa un centinaio di milioni di euro, ma attenzione, è molto poco se raffrontato al costo di un'autostrada, ad esempio. 3 chilometri di autostrada costano 100 milioni di euro e soprattutto progetti come questo riescono a produrre benefici sul territorio che sono pari all'investimento fatto, ma ovviamente poi per tutti gli anni. Allora, quindi il nostro obiettivo è andare a raccontare sul territorio che cos'è. Dopodiché, anno dopo anno, alziamo l'asticella delle dell'ambizione, della pretesa, e vogliamo assolutamente arrivare a costruire, come dire, un'intesa sul territorio in modo tale che diventi per lo Stato italiano a questo punto sempre più difficile dire no, non mi impegno. Tant'è vero che l'anno scorso abbiamo raccolto il consenso del Ministro del Turismo e anche quello dell'agricoltura. Quest'anno abbiamo il patrocinio del Ministro dell'Ambiente, ancora del Turismo e dell'Agricoltura, c'è un interessamento anche da parte del Ministero degli Affari Regionali. La Regione Piemonte, prima regione delle quattro attraversate dal progetto Vento, ha dato formale adesione e sta già lavorando a immaginare la realizzazione del tratto piemontese. Cosa vuol dire? Vuol dire che sta mettendo da parte i soldi, tanto per provare a dirlo in termini semplici, per poter realizzare l'infrastruttura. Questo è già una cosa molto importante, però è una cosa importante che va anche raccontata in Veneto, va raccontata in Lombardia, va raccontata in Emilia Romagna. Allora credo che a questo punto Diana Giudici, che è lì con lei, professore, possa dirci un po' del percorso che state per fare. Ricordiamo tra l'altro che Vento Bici Tour quest'anno si svolge da sabato 30 maggio da Venezia. E arriviamo domenica 7 giugno a Torino, in occasione dei Bike Days piemontesi e del Bike Pride di Torino. Ma perché il Piemonte ha una particolare sensibilità per la bicicletta o è stato convocato in occasione del vostro arrivo questo Bike Pride? Allora, no, il Bike Pride è stato organizzato da un'associazione piemontese e la coincidenza di giorni fa sì che i due eventi si possano rafforzare l'uno con l'altro, per cui Vento Bici Tour verrà accolto prima della partenza del Bike Pride in Piazza Vittoria a Torino e poi insieme si pedalerà appunto per la città di Torino per poi tornare in Piazza Vittorio e concludere il Bike Pride e Vento Bici Tour con una grande festa. Ma questa è solo la conclusione, prima c'è da pedalare. C'è da pedalare, sì. Partiremo appunto sabato 30 maggio da Venezia, la prima tappa è ad Adria, quindi siamo in Veneto, in provincia di Rovigo, passiamo poi in Emilia Romagna e faremo tappa a Ferrara, dopodiché abbiamo una serie di tappe in Lombardia, di cui ricordo mercoledì 3 giugno la tappa di Cremona, in cui verrà organizzato un importante convegno voluto dalle fondazioni bancarie, al quale saranno presenti le fondazioni bancarie, per dire quale può essere il loro ruolo e il loro contributo a progetti di infrastrutturazione ciclabile, come appunto Vento. A seguire entreremo in Piemonte, dove Regione Piemonte pedalerà con noi dall'ingresso appunto nella regione fino all'arrivo a Torino, e ci saranno sia presenze istituzionali che tecniche che ci accompagneranno durante tutti gli eventi del tour. Cioè vuol dire che magari possiamo immaginare che incontreremo qualche assessore che passa, esatto, e anche il presidente della regione all'arrivo a Torino. Benissimo, quindi questo è un po' in linea di massima il programma, poi gli ascoltatori se vogliono possono ritrovarlo, no, su internet, esatto, al vostro sito. Internet del progetto, che è www.progetto.vento.polimi.it. Polimi, che sta per Politecnico di Milano, così, esatto, magari si memorizza più facilmente. Esatto. Via via verranno poi segnalate bene bene le tappe, oltre a partecipare agli eventi, che penso sia ovviamente una possibilità aperta a tutti, si può anche partecipare alla biciclettata? Allora, la partecipazione alla biciclettata sì, si può fare, anche se deve essere auto-organizzata, nel senso che Vento non è una pedalata collettiva, perché una pedalata collettiva si potrà fare solo nel momento in cui l'infrastruttura sarà realizzata. In questo momento noi stiamo lavorando alla costruzione delle condizioni perché l'infrastruttura venga presto realizzata e quindi ci si può unire, ma in maniera autonoma, al team del Politecnico di Milano, che appunto pedalerà da un evento all'altro. Quindi guardando magari le date, avendo come riferimento quelle, si sa che, non lo so, da Cremona è previsto il vostro passaggio in una certa data, esatto, ci si unisce lì, si fa tutto il giorno, se si vuole si dorme anche fuori, però bisogna organizzarsi da soli. Bisogna, esatto, organizzarsi da soli, tenendo ben presente che in questo momento l'infrastruttura non c'è. Quindi in alcuni tratti si pedalerà su piste ciclabili che esistono, in altri tratti si pedalerà anche in promiscuo con le auto in situazioni che non sono al momento sicure. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio, stiamo parlando della terza edizione di Vento Bici Tour. Quest'anno dal 30 maggio al 7 giugno, biciclettata lungo il Po da Venezia a Torino per far conoscere il progetto di dorsale cicloturistica della Valle del Po, cui si lavora da diversi anni ormai al DASTU, Dipartimento Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. I nostri ospiti sono Paolo Pileri e Diana Giudici e riprendiamo con loro il discorso dopo aver sentito un altro piccolo passaggio del filmato realizzato durante le scorse edizioni di Vento. Degli ambulanti, questa cosa qui si può fare, è un passo dall'attuazione, basta poco. Quando parliamo di preparare questo percorso non pensiamo a costruire nuove strade, no? Qui il discorso è un altro, è mettere in sicurezza quelle esistenti in modo che un ciclista possa andare tranquillamente. Prevalentemente è proprio così. Direi che il 60% di tutti i 600 chilometri già esistono, ci sono degli interventi da fare di messa in sicurezza piuttosto che di rimozione degli ostacoli, piuttosto che di raccordo delle pavimentazioni. Il restante 40% è soprattutto fatto, ci sono dei nuovi tratti da realizzare, intendiamoci, sono molto modesti, soprattutto sono quelli urbani perché passiamo all'interno di alcuni paesi, e dopodiché, come si diceva prima, abbiamo i ponti, cioè i tratti sui ponti e i tratti di avvicinamento e di distacco dai ponti che sono da realizzare, quelli saranno nuove opere assolutamente. Quindi, lì sui ponti cosa si fa? Perché non è che si può costruire un nuovo ponte? No, allora noi abbiamo messo a punto una soluzione che abbiamo già visto essere utilizzata anche in altri paesi, che sono delle mensole che vengono attaccate, immaginate come se dovessimo tassellarle al bordo del ponte e fare una passerella come se fosse una mensola attaccata al ponte, che quindi è come se allarghiamo la superficie, il piano del ponte, per ottenerne un paio di metri per poter far passare i ciclisti in tutta sicurezza lato. E questa è la soluzione per i ponti? Questa è la soluzione per i ponti, dopodiché abbiamo altre soluzioni necessarie, perché se noi siamo sull'argine, che è straordinario, bellissimo, l'argine ha una quota rispetto al piano campagna di 5-8 metri, quindi bisogna molto spesso raggiungere quella quota con delle passerelle, con una salita molto molto dolce, perché il cicloturismo, lo ripetiamo, deve essere un'attività aperta a tutti, anche quelli che di bicicletta non se ne intendono, e di conseguenza tecnicamente bisogna realizzare anche delle passerelle con una capacità di salita molto molto dolce, in modo tale che tutti possano farla, anche farla con le borse, i carrellini, quindi anche con dei pesi dietro Magari famiglie, certo, famiglie, con bambini. Assolutamente. Il 40% del cicloturismo in una nazione dove il cicloturismo va molto, che è la Germania, il 40% è fatto da famiglie con bambini e il restante 20% da famiglie con adolescenti, quindi il 60% del mondo del cicloturismo è fatto da famiglie fondamentalmente, quindi per quello che le infrastrutture devono essere assolutamente adeguate, adatte a quel tipo di target prevalentemente. Quindi direi che i lavori più consistenti sarebbero quelli dei ponti, delle passerelle dai ponti, per i ponti, verso gli argini, insomma questi sono i punti. Gli altri sarebbe più semplice, gli altri punti sarebbero di più facile sistemazione. Sì, praticamente dei 100 euro, dei 100 milioni di euro, magari 100 euro, dei 100 milioni di euro, direi che neanche una decina serve per sistemare quasi il 70% di tutto il tracciato, quindi è incredibile, perché le sommità originali, come dicevamo prima, sono già pronte, e tra l'altro uno degli esiti di questi tre anni di lavoro è quello di aver portato le autorità fluviali, che sono due nel nostro paese in questo caso, a firmare un protocollo d'intesa in cui si rendono disponibili a rivedere completamente le norme che in questo momento regolano l'uso degli argini, in modo da renderle esclusivamente favorevoli per i ciclisti. Quindi questo è stato già un risultato portato a casa dal Politecnico di Milano, che è importantissimo perché sblocca completamente l'utilizzabilità degli argini per i ciclisti, che fino a ieri non era consentito paradossalmente. Quindi ci sono due autorità fluviali e sì. Quanti comuni coinvolti? Oltre 100, a quattro regioni e 12 province. E 12 province, quanti 100, comuni? 121 comuni coinvolti, 242 località incredibilmente proprio il doppio. E quindi da questo punto di vista una valangata di soggetti che però ormai quasi tutti hanno aderito a questo progetto, quindi questo è un altro piccolo successo, che è però importante in questo paese, perché voi sapete bene che purtroppo, come dire, la frammentazione amministrativa molto spesso è un ostacolo per questi grandi progetti, perché ognuno fa la sua piccola ciclabile che però non va a soddisfare un'ipotesi, una visione di turismo, non può che soddisfare alcune necessità interne rispettabilissime, assolutamente utili, però non turistiche. Se noi vogliamo immaginare che un'opzione invece di occupazione, di economia sui territori sia quella turistica legata alla bicicletta, bisogna mettersi tutti insieme su un unico progetto, e quindi da questo punto di vista un nuovo modo di progettare, anche perché bisogna trovare un tavolo attorno al quale far sedere le 4 regioni, le 12 province, i 120 comuni. Però che a questo punto sono quasi tutti d'accordo, parliamo anche di 3 ministeri, sono d'accordo, quindi qui il problema adesso è tirar fuori 100 milioni. Il problema in parte tira fuori 100 milioni, ma che è la cosa davvero meno problematica, perché se fate due conti, mettiamo dentro anche lo Stato, 3 regioni più Stato sono 4 soggetti, 3 anni di lavoro, ci sono sempre fatti i conti che sono più o meno 8-8.5 milioni all'anno a testa, quindi credo che nessuna delle 4 regioni, ognuna delle quali ha un bilancio da 20 miliardi l'anno, e lo Stato italiano non sia in grado di tirar fuori questa cifra. Il problema è comunque in parte burocratico, in parte culturale, cioè il problema è far capire che questa cifra è da tirar fuori subito e deve stare nell'agenda delle cose da fare immediatamente, cioè come dire, siamo tutti d'accordo ma adesso fateci vedere che però si parte, qui ancora dobbiamo, come dire, vincere ancora l'ultima rampa, l'ultima salita. Quindi c'è ancora del lavoro da fare da questo punto di vista. Allora, io so che voi avete studiato anche i benefici, diciamo, del cicloturismo in altri paesi. Me li dice lei o me li dice Diana? Proviamo a fare dire a Diana quali sono i benefici del cicloturismo negli altri paesi. Allora, per esempio in Germania abbiamo un indotto annuo generato dal cicloturismo di 4 miliardi di euro. A questo si accompagnano circa 120.000 posti di lavoro stabili sul cicloturismo. E questo è un primo importante dato. In Francia, per esempio, gli occupati nel settore del cicloturismo sono 16.500, a fronte di una lunghezza delle piste ciclabili di 6.900 chilometri. E quelle che vorranno realizzare entro il 2020 sono ulteriori 10.000 chilometri, 13.000 chilometri. E si procede con una certa speditezza, direi, quindi, specialmente in Germania, non è che si aspetta molto tempo, insomma, voi siete dietro a questo progetto da 3 anni, se anche va bene ne passano altri 3, insomma, direi che ci sono altri livelli di attenzione a questo tipo di turismo. Esatto, sì, il cicloturismo sta ai primi posti delle agende pubbliche negli altri paesi, da noi su questo bisogna ancora lavorare molto. Sì, tra l'altro un cicloturismo che, attraversando zone anche di pregio artistico, potrebbe portare benefici anche alle città d'arte, non solo alle campagne, persone, esatto, in più. Esatto, certo, perché si collegano città d'arte importantissime che possono essere fruite e raggiunte in modo diverso, in modo nuovo attraverso la bicicletta. Una cosa importantissima è che non solo le città attraversate da vento potranno essere fruite attraverso la bicicletta, ma in Lombardia, per esempio, si sta lavorando alla costruzione di una rete che lungo gli affluenti principali del fiume Po, e che attraverso appunto il progetto Brezza finanziato da Fondazione Cariplo sta consentendo la realizzazione di studi di fattibilità per la costruzione di una rete. Quindi c'è anche un indotto interessante, insomma, ecco, di questi progetti. Esatto, sì, e il progetto Vento a sua volta sta generando tanti altri progetti diffusi sul territorio. Non abbiamo detto prima, ma ne approfitto adesso prima di chiudere, che lunghezza hanno le tappe, per dare un'idea magari a chi vuole unirsi al gruppo? Allora, le tappe hanno una lunghezza che varia tra i 50 e gli 80 chilometri. Dipende, le tappe sono organizzate in funzione degli eventi che noi abbiamo sul territorio, quindi abbiamo tappe più brevi che sono nell'ordine appunto dei 50-60 km, come per esempio Venezia Adria o Adria Ferrara, e poi abbiamo tappe più lunghe che invece aggiungono anche gli 80-90 km, come quando ci sposteremo da Casalmaggiore a Piacenza facendo tappa a Cremona. Ora le chiedo, se mi ripassa Pileri, che ho una curiosità. Qual è l'aggancio con l'anno internazionale del suolo, che è il 2015? Perché mi diceva che c'è. Allora, sì, due agganci, proviamo a dirne due. Il primo, stiamo tutti questi comuni, come tanti comuni in Italia, purtroppo si ritrovano a fare cassa, cioè a incassare soldi svendendo suolo, perché non riescono a immaginare altre come dire, fonti di reddito da distribuire sul territorio. Nel cicloturismo stiamo dimostrando che invece può essere un'alternativa. Uno studio che è stato fatto in Canada, molto interessante, ha dimostrato che anche per lo Stato è vantaggioso investire in turismo, perché per ogni milione investito il gettito fiscale in Canada sul turismo è di 230.000 euro, mentre nell'edilizia è di 50.000 euro. Quindi, come dire, stiamo dicendo, guardate che esiste un'alternativa di investimento al cemento, va bene, che può essere, perché no, anche nell'immaginare un futuro di infrastrutture leggere, come quelle cicloturistiche, capaci di portarti in modo inedito migliaia, centinaia di migliaia di turisti che vanno ad alimentare le imprese che tu hai sul territorio. Quindi a noi sembra una buona ricetta e quindi salviamo anche suolo in questo senso. L'altro legame col suolo è un po' più raffinato, però un po' più inedito per la nostra cultura, però altrettanto importante. Il nostro paesaggio, quello che noi vediamo, che è la cosa più straordinaria che abbiamo e più attrattiva che abbiamo, dipende dal suolo, da quello che lo sostiene, il suolo che lo sostiene. E quindi, come dire, immaginare di rendere visibile il nostro paesaggio anche attraverso un progetto di cicloturismo vuol dire in qualche modo onorare il paesaggio e onorare anche il suolo che lo sostiene. Ad esempio poi lungo Vento tutto il paesaggio agrario, tutta l'agricoltura che c'è è un'agricoltura che ti grida addosso il suo legame col suolo. Quindi da questo punto di vista secondo noi anche questi due legami sono molto forti. Ci dobbiamo fermare perché il tempo a nostra disposizione è finito. Ringraziamo ancora una volta Paolo Pileri e Diana Giudici, ricordo del Politecnico di Milano. Ricordiamo il sito internet del progetto www.progetto.vento.polimi.it. Comunque ricordate che su internet potete cercare Vento Politecnico di Milano e arriverete immediatamente a destinazione. L'appuntamento con l'altro pianeta è per la prossima settimana, come sempre alle 14.05, il nuovo orario. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.